Sean. Ci sarà sempre una musica vera che non smetterà mai di vibrare nell'aria. Ed eccoci qua, tornati ragazzi, con le nuove puntate del Tampillo versione spagnola, sempre però introdotto da Ginko, regà, perché Ginko lo volevo lasciare, perché sempre Ginko, sempre musica vera, stesso messaggio del Tampillo, anche se cambia la stagione. Ma qui in più c'ho pure un ospite, regà, un ospite speciale, internazionale, di doppia nazionalità, mi diceva. E si chiama, nome d'arte, perché è un nome d'arte, che si chiama Erchino. Un nome d'arte. Che ne pensa Erchino? De Erchino. Contento di essere qui con Tampillo, mi ha invitato a questo fantastico podcast e questa radio fantastica dove si parla ovviamente di musica. E cosa dire? Che gli andiamo a piazzare quest'oggi a sti ragazzi? Di che gli parliamo? Ma se abbiamo iniziato questa puntata parlando di musica spagnola, ok, comunque musica sudamericana. E anche se poi. Che dici? Di che nazionalità sei? Italo canario, se potete sì adesso, se potete sì, no, non è vero. Dove stiamo ora? Ora è la isla más bonita del mondo, è la isla canaria. E quindi non potevamo che non mettere musica sudamericana. Che non c'entra un cazzo. Però, e tra l'altro non c'entra un cazzo, devo dire che è molto canario come. No, 100% romano. Però no, ormai ha adottato dalle Canarie, dallo Canarios. Però qui adesso abbiamo una bella intro, ma non spoileriamo. Vai, infatti non spoileriamo. Bravo, hai ragione Dino, stavo per spoilerare. No. Noi spoileriamo ragazzi, vi mandiamo questa canzone e vi lasciamo capire di chi vi parliamo oggi. Riconosciuto, regà? Vi sembra qualcuno dei familiari, però non vi convince del tutto. Ricorda qualcosa, vero? Dai, Tino, è il momento di svelare a questi ragazzi di chi stiamo parlando. Allora, voi direte sicuramente vi ricorda un uomo chiamato Manu Chao. E non ci avete tutti i torti, vi dirò. In realtà, ragazzi, non è un plagio, ma è proprio lui. è proprio Manu. Siamo andati a scovare la sua band prima di diventare Manu Chao da solista. Aveva una band con suo cugino e suo fratello chiamata Mano Negra e già spingevano all'epoca. E quindi quella che si trova sulla... Sì, il Kino mi faceva notare che si sono stati attivi dal 1987 al 1994. Poi da lì Manu Chao è diventato solista perché siamo nati noi, ha detto poi quelli faranno una puntata su di me. Tra l'altro è nato in Francia questa band, è nata in Francia. Eh sì, infatti per chi non lo sapesse, Manu Chao in realtà è mezzo francese. Nato in Francia da genitori spagnolo e francese. Quindi, e intanto in sottofondo ragazzi vi parte un'altra canzone di questi... Mano Negra, di questa band di Manu Chao. E niente, che gli stavamo dicendo a questi ragazzi? Che comunque sia, poi andremo a vedere un po' l'evolversi della musica che ha fatto Manu Chao dalla band a solista e come si è trasformato poi anche lui, perché poi ecco, da io penso lui sia nato in Francia, ha creato questa band in Francia tutto quanto, per poi ritrovarsi di nuovo a cantare in spagnolo. Non lo so, mi sembra assurda come cosa, però è Manu Chao, quindi non possiamo dire nient'altro. Vai, digli quante lingue parla. Manu Chao parla una lingua che si chiama Wolof, non so se l'avete mai sentita, ma è una lingua che si parla solamente in Senegal, ok? Parlata da solo 12 milioni di abitanti, o meglio 12.000 persone, e oltre questo, vabbè, abbiamo un repertorio come il francese, arabo, portoghese, italiano, spagnolo e galiziano, perché ricordiamo che i genitori sono sia spagnoli che galiziani, di Bilbao e origine basca lui viene, quindi avanti Bilbao proprio. E queste non sono lingue che parla, queste sono lingue in cui canta. Andiamo a specificare quest'uomo. Ebbene sì ragazzi, poi dopo Manu, dopo questa sua, cioè questa band, questi inizi, ovviamente è diventato il Manu Chao che conosciamo tutti. E quindi niente, noi volevamo, come diceva il Kino, mandarvi un po' di canzoni in escalation, quindi l'evoluzione dalla più antica alla più recente di Manu, una bella evoluzione. E non possiamo che non iniziare con esatto, il suo miglior album indiscutibilmente, che è Clandestino ovviamente, ma vi metteremo una canzone che vi sorprenderà. Hoy día luna día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna día pena, hoy día luna día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló. Poi sotto ragazzi vi lascio partire una delle mie preferite, poi ne parliamo dopo. Per ora lasciamo lo spazio all'ascolto. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira. Questa è una delle canzoni che mi tocca di più, però proprio da un punto di vista personale. Però ecco, cosa dire riguardo Manu Chao ancora, che non è che ve l'abbiamo presentato poi così bene alla fine, vi abbiamo soltanto introdotto un po' delle sue origini, ma chi è Manu Chao? È un uomo che fa intanto un album che si chiama Clandestino, quindi il suo messaggio è chiaro. E appunto che manda sempre avanti messaggi di spiritualità, no? Di staccarsi dal sistema, proprio mentira, ti dice todo es mentira, cioè ti dice proprio è tutto una calla. Quindi cioè, di non rimanere attaccati alle cose finte, no? Di più che altro perseguire lo spirito e le cose sincere, le cose vere. E quest'album, penso che in tutte le canzoni si sente questa cosa. E beh, a me piace molto, ma diciamo sappiamo è uno dei suoi album più famosi comunque, quindi ma diciamo questo suo spirito poi da zinger, spirito libero, ce l'ha sempre comunicato nelle canzoni, quindi noi lo rispettiamo tanto. E il Kino che ci voleva dire? Io direi, anche per chi non conoscesse lo spagnolo, di andarsi a tradurre questa canzone, perché è raga fantastica la traduzione di questa canzone, quello che dice e quello che pensa, e riuscirete anche a capire cosa pensa veramente Manu Chao con una sola canzone. Ed è follia questa, è follia pura. Comunque il tampiglio, beh questa è un po' una sua abilità, quindi diciamo sì, noi lo apprezziamo per questo anche. Comunque intanto sotto, ragazzi, è partita una canzone non di Manu Chao, ma degli Onda Vaga. Ci tenevo a farli sentire, perché almeno in sottofondo, perché sono... Lo faccio sempre, tanto. Mi scionderia, quiero volar nella cabeza. En este parque de colores e ilusiones paganas. Questo, ragazzi, se vogliamo definire come un genere quello di Manu Chao, potremmo usare il termine cumbia, che è musica sudamericana, comunque un misto tra queste sonorità appunto sudamericane e poi il reggae, quindi si sente molto questo mix. Loro sono argentini e tra poco saranno anche a Bologna, quindi se siete in Italia, ragazzi, andateveli a sentire. Sono Onda Vaga, si chiamano, e sono fenomenali. Tanto, come ben sapete, se non ve lo ricordate ve lo ricordo, che sul sito, ragazzi, ci sono tutte le liste delle canzoni che vengono messe, più la playlist, il link alla playlist Spotify, dove ci sono tutte le canzoni della puntata, e in più ci sono anche i miei link, il link per entrare nella community di Instagram, oppure tutti i miei link, cioè il link tree. Quello, se volete, a fine di ogni puntata sul sito Roots Radio. Ricordo, saluto Gianluchino, bella Gian, e tanto poi sapete, vi mando tutti i miei link su WhatsApp oppure sulla pagina Angolo del Campillo Instagram, e da lì sul sito ci sono tutte le puntate. Detto questo, Chino, io volevo soltanto aggiungere che sì, Manu Chao possiamo dire cumbia, ma a voi, a te, a generi, non solo parla tante, canta in tante lingue, ma anche diversi generi, ma lo vedremo tanto nel corso della puntata. Per adesso che cosa vi mando? Vi mando una sua canzone di un album fatto interamente in francese, che è l'album quello poco dopo seguente Clandestino. E niente, ragazzi, andiamoci a sentire Manu Chao in francese. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour, de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir, au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie, à dormir ce matin. Stavamo parlando mentre c'era questa canzone per la prossima, canzone, che è un successone anche questa di Manu Chao. E io direi al Campillo di intanto metterla sottofondo. Già c'è? No. Ah, breve parte, fantastica sta cosa. Ma questa canzone semplicemente parlerà di quello che vede Manu Chao in un'altra persona, ok? Di come potrebbe essere la sua vita attraverso un'altra persona, no? E secondo me è qualcosa di fantastico, perché la spiega molto bene. Questo mi piace molto. Anche qui poi si riconferma questo suo spirito proprio aperto, libero, no? Aperto a tutto, può succedere. Flocky, che ne pensi di Manu Chao? No, odora solo. Comunque, ragazzi, la canzone la riconoscerete sicuro e ve la mandiamo subito. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, y arriba. Messaggio chiaro, se ero Maradona avrei fatto come lui. E chi gli può dare torto? Chi gli può dare torto? E secondo me comunque io l'ho sempre vista anche un po' come un invito ad accettare un po' il caso che c'è nella vita, no? Non andare sempre a dire oddio mi è successo questo perché non quell'altro, cioè un po' la vita è una tombola. Se ero Maradona, sai che avrei fatto? Sto Manu Chao, ho cantato. Cioè, io infatti lui che riconosco tanto questo e proprio sono gli aspetti che apprezzo di più e forse quelli mi hanno spinto a fare una puntata su di lui. Poi vabbè, io Clandestino ce l'ho anche in vinile, lo seguo e lo stimo da tanto tempo. E infatti, a proposito da tanto tempo, siamo arrivati alle sue canzoni più recenti, canzoni del 2019, ragazzi, pensate, insieme a un producer dub, musica che tra l'altro state seguito dalla prima stagione, sapete che adoro. E quindi è totalmente moderno, quindi Manu Chao che si reinventa in chiave moderna su delle basi comunque dub ritmate, ma tanto c'è quando lo freghi. Ed è una canzone che dà Archino? Da speranza. Che c'è da Archino a noi, questa Toto Llegará? No, questa canzone Toto Llegará, come dice il titolo, da speranza, soprattutto nelle parole di Manu Chao, dove qualsiasi cosa che affronterai arriverà, ok? Non ci sono problemi, non c'è stress, non c'è nulla, arriverà tutto. Se lo vuoi veramente, arriverà. Io direi... Equivocado yo, pena por mi morena, que yo sin ti me hundo. En un día tan profundo, en un día sin respiro, lo digo y me confundo. Equivocado amor, equivocada tía, equivocados tanto, lo digo y me consuelo, tirándome del pelo. Equivocada vida, equivocado amor, equivocado dolor, equivocado amor. Todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará. diciamo che Manu col tempo non è che si è andato perdendo, anzi questa secondo me è una canzone veramente di Cristo, cioè, ma sia per il significato sia pure per la musica, cioè la musica, il ritmo, direi totale. Io credo che il messaggio l'ha passato alla grande questa canzone, l'ha passato veramente veramente alla grande. No infatti io direi, guarda, che di Manu ne abbiamo parlato abbastanza, noi questa Toto Yegara ce la siamo sparata spesso qui, perché vabbè, detto, quando la musica è così coerente con il testo si crea sempre un po' la magia. Questa forse è la musica vera che ci dice Ginko all'inizio, che Ertampillo e Erchino si appresteranno a scoprire. Comunque ragazzi, sì, su Manu vi abbiamo detto più o meno tutto, e qui io penso che possiamo di nuovo lasciare spazio alla musica, ragazzi. Questo è il suo stile del 2019, solo 4 anni fa, insieme a Chalart, un producer dub tra l'altro forte in culo anche da solo. Potete seguire anche lui, ricordate tanti tutti i link che vi lascio. E ragazzi, io vi direi, sentiamoci quest'altra bomba, stesso album, sempre con Chalart. Si cabemos en la bañera, hay un poquito de mí dentro de ti. Así viajamos a donde quiera. Dentro de ti hay un velero volando al viento de mi mechero. Tan loco como yo te quiero, tan loco como yo te quiero, tan loco como yo te quiero, tan loco como yo te quiero. Hay un poquito de mí dentro de ti, así soñamos en la pradera. Hay un poquito de mí dentro de ti, así baila la noche entera. Dentro de ti, el mundo entero, volando al viento de tu sombrero. Tan loco como yo te quiero, tan loco como yo te quiero, tan loco como yo te quiero. Tan loco como yo te quiero. Hay un poquito de mí dentro de ti. Hay un país como un paseo, volando al viento de tu deseo. Así bailamos en la bañera. Hay un poquito de mí dentro de ti. Y así volamos a donde quiera. Dentro de ti hay un lucero que alumbra el todo. Y así te veo como un velero. Tan loco como yo te quiero, tan loco como yo te quiero, tan loco como yo te quiero, tan loco como yo te quiero. Hay un poquito de mí dentro de ti. Quanto è rilassante, madonna, questa canzone. Beh, comunque ragazzi, noi non siamo pazzi e non potevamo fare una puntata su Manu Chao senza lanciarvi e lasciarvi con la bomba numero uno di Manu. Sempre con te, Manu, grande! We'll be right back.